mutano volti e regole. Così va il mondo, lui non cambia mai. Che nome hai dato alla tua vita? La mia la chiamo rispetto. Carta e penna fra le dita, segno, scrivo tutto ciò che penso. Cosa è vero, trova nella sua risposta il suo mistero. Lo spazio immenso che sta sopra noi, dicono sia il cielo degli eroi. Ma l'idea di libertà che è falsa gloria è costata per far parte della storia. Che colori ha la tua bandiera? La mia batte quelli dell'amore. E non c'è guerra che ti fa sperare che il giorno che vivremo sia migliore.